Wall Street, I viaggi del lupo. E ci siamo anche in questo venerdì 26 maggio. Siamo ormai alle battute finali di Wolf Trips. Io sono Domenico Biancardi e questa sera avremo un'intervista molto speciale a un amico. Però non vi svelo nulla per adesso. Andiamo ad ascoltare un po' di brani nuovi. Oggi abbiamo come primo brano il pezzo di Brass Track, estratto dall'album Good Love. Il genere è un po' misterioso in realtà. Io ho fatto un'analisi, dovrebbe essere Future Bass, ma in realtà non saprei. Lui proviene dagli Stati Uniti, andiamo ad ascoltarlo col brano Melanin Man. We've been running, beaten, tucked down, cause our skin I shine right through the hate. I'm a king, she a queen, they all know we're great. I know you a fan, ooh, you want my style. Can you rock a paint chain, can you rock my sorrows? I know they're afraid, cause I'm educated. Yeah, yeah, you're looking at greatness. I'm melanin man. No, no, no, that ain't a tame, yeah. You're a fan, oh, my heritage is your new trend, yeah. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. There they go, they so fly. Melanin man. Questo era Brass Tracks con Melanin Man, un brano molto tranquillo. Come al solito nella puntata di Wolf Trips partiamo sempre da un beat molto leggero per poi andare a incrementare. Ma questa sera vi dicevo che abbiamo un ospite per una bellissima intervista e lui è Fabri DJ. Dico bene? Sì, esatto, esatto. Io okay. E Domenico poi alla fine ci conosciamo da molto tempo. Sì, sì, sì, adesso da tantissimo. Facciamo finta di non conoscerci qua. No, infatti, ma chi sei? È il primo che ho trovato per strada, no, non è vero. Ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo diviso la console anche per un sacco di anni e in diversi locali. Sì, parecchie cose, abbiamo fatto cose molto, mi ricordo delle serate veramente piene di gente, serate anche un po' meno piene, sì, tipo l'ultimo. Vabbè, succede, dai. però ci sta, dai, va bene, va bene. E presentati anche un attimino, dai, dici un po' chi sei, cosa fai, che generi suoni. Ma allora, il discorso è molto, molto lungo, se devo partire. No, stringi, veloce, diciamo veloce. Sono partito nell'epoca quando il DJ era lo sfigato della festa che doveva mettere i dischi, perché una volta c'erano i dischi. Io ho cominciato così. Ah, hai cominciato con i giradischi, quindi. Feste nelle scuole, garage, con i vinili. Non forse non esistevano neanche i CD quando ho cominciato, perché io parlo dei primi anni 90 e sono rimasto un po' old school, dai, diciamo, mettiamolo così, per il genere techno. We Need Freedom, James Brown Is Dead, questi sono stati poi il periodo brani che proprio... mi ha affascinato proprio alla dance, mi ha fatto attaccare proprio alla musica. Beh, James Brown è il periodo zanzarismo, io premetto che io sono sempre stato attratto dalla musica in generale. Io quando ero piccolo ascoltavo le cassettine di mio papà, le famose Basf verdi. Ah sì. Mio papà, io gente che non sa nemmeno cos'è, sì, adesso, esatto, queste cassettine qua. E ascoltavo Michael Jackson, Lucio Dalla, Battisti, Beatles, e rimanevo affascinato sia dalla musica ma anche dal supporto. Quindi dalla qualità, anche audio, dall'audio, dal supporto come hi-fi, dal mangiadischi, eccetera eccetera. Pensa che qua in radio ci dovrebbe essere dei lettori di cassette e mi dice, io non sono mai arrivato in realtà così tardi, però diciamo che nelle epoche iniziali le varie sigle, i pezzi o anche le pubblicità venivano proprio messe con le cassettine. Pensate che lavoro, infatti, guarda, minuzioso che andava Domenico, fatto. Ti dirò, io quando facevo le prime feste, le prime anni 90, le facevo nei garage o nelle feste delle scuole, ovviamente essendo troppo giovane non tutti i dischi li potevo comprare. Certo. E quindi tanti pezzi li suonavo dalle cassettine, piuttosto che dalle cassettine che registravo a casa, dalle radio. Ma ci sta, c'era ci lo speaker sta. Che parlava poco, ovviamente. Certo. Va bene, adesso andiamo ad ascoltarci un brano che continuiamo con una bella serie di domande da farti. Questo è Tovi Strike con il brano Say My Name. Jump in our relation, and I don't mind, but when we touch it's elevation. Up, up, up, up, up. Up, up, up, up, up, up. You speak my lingo, we don't need no translation. I never need a break, cause we feel like vacation. Up, up, up, up, up. Got me up, up, up, up, up. Go ahead and feel what you feel. The way you been, no information. And you got me running out, out of patience. Oh, up, up, up, up, up. Got me up, up, up, up, up. I like the interaction, you got my attention. I'm not in love, but I'm loving the situation. Up, up, up, up, up. If you down, don't dare to stop. Go ahead and feel what you feel. Say my name. I can't get enough when you say my name, say my name. Spill it out like a drink, you should escape. You're the one I wanna get when you say my name. Let it roll, love you down. Let me know what you want. Wear it out like a sweater that you love. Cause I can't get enough when you say my name. E lei è Tove Strike, proviene direttamente dalla Svezia. Un brano, possiamo definirlo indie pop, dream pop, electro pop, diciamo un brano molto tranquillo, nulla di esageratamente eccessivo. Ma continuiamo un po' con le domande. Ti volevo chiedere un pochettino, prima abbiamo parlato vabbè dei giradischi, ma il tuo setup, diciamo da mixaggio, si è evoluto negli anni, no? Quindi si è passato dai giradischi ad altro. Sì, infatti teniamo conto che il giradischi e il vinile l'ho proprio abbandonato. Io praticamente adesso per comodità uso le chiavette. Però diciamo che il setup da DJ per ora resta ancora quello dei lettori, del mixer eccetera, non del computer, ecco, questo ci tengo a dirlo. Poi magari chissà. Beh, sì sì, io ti devo dire la verità, ho tradito un po' i miei CDJ, ma per una questione di comodità, dato che dobbiamo fare degli eventi e c'è bisogno di essere veloci, monta smonta, ho recuperato un controller. Però diciamo che i CDJ rimangono sempre lì, non li venderò, ecco. Io preferisco sentire la sfumatura del mixaggio un po' sporco, fuori tempo, sì, sporco, sì, piuttosto sì, che sentire il passaggio perfetto, pulito, che sa tante volte di plastica. Però giustamente mi dicevi, però con questo sono a favore della tecnologia, assolutamente. Infatti, che secondo me non è sbagliatissimo, ecco, no, non è sbagliato per niente, non bisogna abusarne, però tutto sommato non è sbagliato. Io penso che è un po' cambiato anche il modo di come dire, di vendere anche le serate. Ormai il DJ in questione se ha traino, la gente poco gliene frega se sta mixando veramente o sta mixando per finire. Infatti. E, no, ovviamente dire, quando si arriva a certi livelli, sì. Dicevamo che, cioè, è vero che ti sei evoluto, quindi diciamo che i tuoi CDJ hanno comunque la possibilità di vedere gli MP3. Certo, è una cosa che certo. È un'evoluzione esagerata. Ma nel mondo è tantissimo che non uso i dischi. A volte quando capita che facciamo, per esempio a gennaio ho fatto una serata anni 90 a Pietraligure, e lì abbiamo fatto una serata con i dischi. E devo ammettere che non ero più abituato né a portarli in giro. Che infatti il problema più che altro è anche lo spazio che occupano, il peso. Lo spazio, il peso, e insomma è che è anche un po' il bello, se devo dire la verità. È il fascino del supporto fisico che è venuto un po' a mancare negli anni. Questa forse è la cosa brutta, è questa. Ti piace proprio il supporto fisico, ora non c'è. Lo stesso dicono magari chi legge i libri, che infatti ti dice il fascino è più bello, il fascino è proprio lo sfogliare, cosa che adesso magari via web non c'è più. Perfetto. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Loro sono italiani, li ho anche contattati per un'intervista, ma devo lavorarci un po', devo dire la verità. Si chiamano Fare Soldi e il brano è Carli. We'll be right back. loro sono Fare Soldi con questo brano molto particolare, si chiama Carly Carly. Il brano è electro-funk, ne stavamo parlando infatti con Fabri DJ, che è un brano carino, molto particolare. Sai cosa ricorda un pochettino? Non mi ricordo quale pezzo dei Chemical Brothers, quello stavano in treno, però è vero. Non mi ricordo. Ho capito, ho capito quello, non mi ricordo nemmeno. Sicuramente qualche ascoltatore l'avrà azzeccato. Ho capito. Memoria migliore della mia. Tra l'altro loro sono proprio di Udine, ripeto, devo riuscire a rintracciarli in qualche modo perché mi piacciono veramente molto. E prima stavamo parlando quindi della console in generale, ma invece tu collabori anche con delle radio. Sì, collaboro con... Allora, vabbè, andando per gradi, io a fine anni 90, inizio 2000 ho cominciato appunto a suonare nelle discoteche, nei locali Varese non... E finché poi da giovanissimo, quindi fai 19-20 anni, sì, ho cominciato a lavorare per una radio che ai tempi era nazionale ed era Rete 8 Network, che tra l'altro era anche la prima radio via satellite, che era una cosa impensabile ai tempi, no? Sì, vero. E mi ricordo che in quella radio riuscivano a entrare proprio chi era veramente molto molto bravo. Infatti per quello sono rimasto, ero molto lusingato di... Eri contento, diciamo. Sì, infatti mi chiamarono per... Però mi dicevi che non parlavi, giusto? No, non parlavo. Io sono vedi. DJ Zitto che mette, fa il suo mega mix, la sua musica. E forse perché non è che ha una voce proprio così radiofonica, ma secondo me guarda, forse un po'. Ma lascia stare la voce, più che altro bisogna pian pianino, ti devi avere le idee un po' per parlare. Non è facile, devo dire la verità, è molto difficile. Sì. Io ho sempre fatto e lì praticamente avevo un mega mix mio, dove un contenitore di persone che mixavano, DJ che mixavano, i migliori tra cui Panico, che insomma Manolo, Master Max, e andavano in onda per tutta la notte ogni sabato. E questo è andato avanti per 2 anni, insieme poi a feste relative. Come facciamo anche noi a Radio Lupo. Però la cosa di sentire il tuo mixato, il tuo mega mix in radio mentre sei in Puglia in vacanza faceva un certo effetto. Certo. Quindi è stata una bella esperienza. Invece ultimamente hai cambiato un po' il genere. A parte la radio, sì, ok. Sono diventato... Sì, diciamo che c'è stato un periodo che sono diventato molto più elettronico. Adesso poi la dance, diciamo che sta attraversando un periodo, secondo me, molto più pop, sì, e quindi commerciale. Quindi diciamo che la vecchia commerciale è tornata. E soltanto che invece di farla gli italiani la fanno gli americani. Però si sono accorti che non era male il genere. Si sono accorti che eravamo bravi. E quindi niente, poi da qui diciamo che non sono mai stato uno fisso su un genere. Magari ci sono stati dei periodi dove amavo suonare una cosa piuttosto che un'altra, però ho sempre vissuto la dance a 360 gradi, ancora oggi. E infatti sei venuto nel programma giusto, perché effettivamente anch'io non amo etichettare, esatto, le cose troppo, esatto, di un genere e di un altro. Infatti il prossimo brano sentirai che è un brano che mixa la chitarra, diciamo, blues con l'elettronica. Andiamo ad ascoltarlo, è Two Feet con Go Fuck Yourself. Fucked and drank all night, acted all right. Had no need to fight tonight. Fucked and drank all night, acted all right. Had no need to fight tonight. Cast me far away. today, today. Era Breakbot con Mystery. Abbiamo un po' virato sul genere funky house che sta andando molto in questo periodo. E continuiamo un po' l'intervista con Fabri DJ. Stiamo parlando prima di radio, però mi dicevi anche che hai avuto un po' di esperienze per come organizzazione di eventi, giusto? Sì, c'è stato un momento della mia vita che mi sono messo un po' a organizzare eventi insieme a lo saluto Andrea Boncore, che ancora adesso fa cose, e con lui ci siamo trovati a organizzare diversi eventi, quindi in quel momento facevo sia il DJ che l'organizzatore. Ah, ok, solo ok. Che è una cosa che mi ha portato via un paio di anni. Fino anche a perché non è semplice fare entrambe le cose, infatti, no? È un po' come fare regista attore. Esatto. e quindi era un momento un po'. Non riuscivo più a fare quello che poi amo di più, cioè suonare e comunque mettere musica, trasmettere emozioni alla gente, al pubblico, che sia in radio, che sia in discoteca. Dove... Sono due cose complesse effettivamente. E quindi poi piano piano abbandonato nonostante tutto. Però beh, però è stata una bella esperienza. Ci sono stati, sì, a me piace mettermi in gioco, quindi è stato molto bello. Beh, serve anche quello un po' per formarsi, no? Perché sennò... Beh, devo dire la verità, effettivamente sono due cose che è bello fare tutte e due, però... Poi ti rendi conto che o fai una scelta o fai l'altra, perché devi dedicarci il 100% del tuo tempo. Esatto. Non riesci a fare entrambe le cose. E andiamo a ascoltarci un altro brano, poi dopo continuiamo con qualche altra curiosità che volevo domandarti. Non so se hai mai ascoltato l'etichetta Headbang Records. Non lo so, perché sì. è un genere. È praticamente BZP, che è l'artista che andiamo a ascoltare dopo. È stato anche il manager di Cassius dei Daft Punk. E poi dopo ha fondato questa sua etichetta francese. Che è insomma è un pilastro un po' dell'elettronica in generale. Il brano che andiamo a ascoltare è ancora, diciamo, si ripropongo un po' di funky house, possiamo dire. Ed è si chiama Gini. Il brano è del 2016, non è nuovissimo, cioè non è nuovissimo proprio, però devo dirti la verità, mi piace ancora molto. Andiamo ad ascoltare BZP con Gini. Era BZP con questo brano Genie, che a me piace veramente molto. Infatti stavano commentando che era molto bello. È da un po' che lo metto, a dirti la verità. Penso che dalle prime puntate di Wolf Trips, diciamo da marzo, ecco, mettiamola così. Interessante. E continuiamo a parlare un po' con te di radio. Ecco, mi dicevi che avevamo fatto una piccola pausa, eravamo arrivati al momento dirette 8, però no, eravamo andati anche avanti. Sì, poi dopo la mia papà, diciamo il mio periodo dove mi sono messo a organizzare, forse è successo anche contemporaneamente, non mi ricordo. Diciamo che le radio web hanno preso un po' sopravvento e quindi da lì è nata la collaborazione con Radio House Mile. E dove suonano un sacco di DJ. Ma dove suoni tuttora, giusto? Dove suono tuttora, due DJ, piuttosto che adesso proprio i nomi non mi vengono, però Tanto abbiamo dei disturbi solo di sottofondo. Sì. Vabbè, è la diretta, può succedere. Esatto, però sì. Però ci suonano un sacco di DJ e anche colleghi, anche amici. E facciamo, diciamo, un genere un po' più club. E faccio un programma che si chiama Official Mix. Infatti, Show. È per quello che lo nominiamo, perché tanto siamo proprio su due binari diversi. Quindi sì, vabbè. Sì. E poi invece dall'anno scorso ho iniziato questo percorso su Radio Pianeta, che è in FM. E con Mix Master, anche lì è un mega mix dove ogni sabato suonano DJ diversi. Ah, bello, bello. Chiavistelli, piuttosto che... Ma di che zona è questa radio qui? Di Bergamo, zona di Bergamo. Zona ho capito. E poi un'altra radio web di cui faccio parte è una radio anni 90, che fa solo anni 90, 24 ore su 24, si chiama Radio Dance Floor. E lì faccio un programma che funziona parecchio, si chiama Novantology, che è nato per gioco, perché mi piaceva l'idea di proporre gli anni 90 e mi piaceva l'idea anche di farli conoscere, cosa che forse adesso se ne abusa anche troppo, forse. È vero, però se devo dirti la verità, settimana scorsa che abbiamo avuto DJ Tinto Giante, che ha fatto un po' di mix live, ha messo dei brani che, devo dirti la verità, non conoscevo, anni 90. E quindi devo dire, secondo me se ne abusa, giustamente, come dici sì, tu. Sì. E però molti mettono sempre i stessi dischi. Bravo, è proprio quello che ho detto. Che è molto ampio in realtà, anni 90. Non c'è solo. Esatto. Non è Rhythm solo, is non night, è solo Snap o Corona. Sì, esatto. Infatti, Novantology è un po' un programma che diciamo non è una compilation anni 90 classic. Infatti, seguo anch'io le playlist che metti. Sì, sì. e niente, poi. E questa avventura è iniziata nel 2012 e la mia idea era quella poi di portarlo live. La cosa poi non è stata immediata, però come tutte le cose nate per gioco poi tante volte sono le migliori. Infatti la cosa è diventata anche live. Ho fatto una serata al Karma di Roma. Poi, no, scusate, no, non al Karma, non mi ricordo il nome del locale. Beh, comunque Phil di Roma. Comunque a Roma. Poi ne ho fatta una al Karma di Milano, a Riccione, e poi ne ho fatta una proprio a Pietraligure a gennaio insieme a Bruno Lecard, The Rammer, Claudio Diva, Cominotto, eccetera, insomma. E adesso a luglio, tra i progetti, diciamo, futuri, perché so che Domenico mi farà la domanda. Quali infatti, infatti, visto. Come tutte le interviste. Giusto. E no? A luglio ci sarà una cosa Eurodance con degli ospiti anni 90. Va bene. Dopo magari ne parliamo anche un po' meglio, che sono curioso di sapere qualcosa in più. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Loro sono Slumberjack e arrivano dall'Australia addirittura. Cambiamo proprio zona. E il brano si chiama Afraid Unafraid. chest, it's time to put my mind to rest. Try to take what I've got left. See, every time the baby tried to hold me back, I felt it coming on really strong. I could hold it down. I think I know what's going on. I was unafraid to start the fight. I was just afraid of the sono Slumberjack, diciamo che arrivano dall'Australia, hanno pubblicato l'ultimo album, si chiama Fracture, del 2017 e collaborano per l'etichetta One Love. Suoneranno a Auckland il 22 aprile, no scusa, sì, hanno suonato, vabbè, che suoneranno, suona un po' male, e il 22 aprile dell'anno corrente a Auckland, quindi non credo che nessuno di noi sia stato lì a sentirli. E torniamo a fare un po' di domande al nostro ospite di stasera, Fabri DJ, e abbiamo parlato un po' delle serate, delle idee di serate future, però altri eventi in programma in realtà non ne hai, giusto? Diciamo che a breve le serate ne faccio molto, ne faccio meno, mi sto dedicando un po' di più alla radio in questo periodo, che non però, è male, non è però male. Comunque le delle serate in programma non sono ancora decise al 100%, ma ci sono. Condivido l'idea di dedicarsi più alla radio, non è un mondo negativo, anzi. E dato che di serate ne fatte tantissime, ti sarà successo qualcosa di particolare, qualcosa che ti è rimasto impresso negli anni, che magari dici boh, ma che cavolo? Allora, ci sono tanti aneddoti, dai più scandalosi ai meno scandalosi. Mi ricordo una ragazza ubriachissima che in console praticamente non riuscivamo a lavorare perché continuava a disturbare i DJ, esatto. Però è una bella soddisfazione quando è una ubriaca che e poi invece è capitato anche che qualcuno facesse delle richieste assurde, tipo una veramente che mi ha fatto piegare è stata quando un ragazzo si è avvicinato e io ero già pronto col dire non ce l'ho, perché chissà come mai i dischi che ti chiedono sono sempre quelli più o che non hai o non li vuoi mettere. Già. E lui invece mi ha chiesto semplicemente dov'è il bagno, che tra l'altro il locale era piccolissimo, quindi il bagno era facile anche da trovare. Vabbè. Oppure un altro che mi ha detto mi metti l'house ma quella bella. Giusto, quello quindi, è un classico. Quindi io ho suonato un'ora e mezza musica di musica merda. Di merda perché... E poi invece un altro mi ricordo che mi ha detto metti un disco che spacca. Giusto. Ma muoviti perché c'è mio padre che mi aspetta fuori dalla discoteca. E non ti hanno mai portato un CD da mettere con la musica bellissima? Sì, tra l'altro mi ricordo sempre, forse Domenico qua ero con te. Sì. Eravamo allo studio 54 di Bus Arsizio e c'è stato un ragazzo che tra l'altro conoscevo anche abbastanza perché mi seguiva. Mi ha detto mi puoi mettere una compilation, un pezzo di una compilation, ma l'ho fatta io, una compilation fatta da me. Soltanto che c'era scritto Hitmania Dance Beh, lui diciamo che si chiamava Mick Leany effettivamente. infatti, ho detto cazzo c'è Mick Leany qua e non faccio una foto. Vabbè, comunque ne succedono di ogni. Sì. Se ti dovessero chiedere, per esempio, a me è l'ansia che ho per i prossimi due giorni, che abbiamo un po' di eventi con la radio. E vabbè, domani siamo a Varese al Lago Divino, ma faremo delle trasmissioni, quindi spero che richieste non ne vengano assurde. Richieste normali nello stile della radio van bene. E il giorno dopo che siamo a un motoraduno a Cascina Costa, che ho una brutta sensazione, non so come ti comporteresti. Sei lì che stai mettendo la tua musica, tutto bello tranquillo. Scusa, mi metti Despacito? Cosa faresti tu? Despacito, dai, diciamo che Despacito è l'incubo di tutti i DJ in questo momento. Però ragazzi, il disco è comunque un disco forte. Anche può non piacere. Però Despacito è la hit. Anche perché ho letto da qualche parte, adesso non mi ricordo chi lo aveva scritto, è che Despacito insieme a La Macarena del 95, sì, e insieme a La Bamba, la canzone, mi raccomando, di... giustamente. Sai che non mi ricordo chi l'aveva fatto. Dopo andiamo a cercare, non mi la ricordo. La Bamba e Macarena sono stati gli unici due dischi a arrivare in vetta alla classifica americana. E il terzo è Despacito, quindi ragazzi. Quindi non ce lo leveremo per i prossimi... ecco. Non ce lo leveremo per i prossimi 20 anni. Esatto. Invece questo qua, un disco che andiamo a ascoltare dopo, è di un artista che si chiama Joan Bland, che viene da Londra. Sicuramente non lo ascolteremo da nessuna parte se non in questo programma. Esatto. E il brano si chiama Back to Summertime, che ci sta bene anche con, esatto, il clima della radio oggi. Cioè, esatto, qua fa caldissimo. Qua è estate piena. È ragazzi. Estate piena, qua è proprio afoso. Andiamo ad ascoltarlo. So much to say. When I said the words just fade away in the nighttime. When it's quiet, I still think of you. And all the times we shared that could have been summer love, it seems so true. Can we get back to what we used to be? Those summer days are all so sweet to me. Wolf Trips, oggi siamo di corsa, sto cercando di correre perché il tempo oggi veramente manca, non so perché. Ovviamente perché siamo in compagnia di Fabri DJ, ci si diverte. Guarda, Domenico, ci sono due cose che mancano oggi: il tempo e l'aria. E freddo. E l'aria, direi che è l'aria, freddo. Sì. E però devo dire la verità, che siamo comunque in compagnia di tante zanzare, quello, esatto, quelle infatti, non mancano. Le zanzare ci seguono. Ci seguono, infatti. E infatti tra gli ascoltatori dobbiamo salutare anche Zan e Zara, sono le due. Sì, sì. Zanza. Zanza, ecco. Che poi ci sta bene anche con i dischi anni 90 che parlavamo prima. Esatto, Zanza. Mi stanno arrivando delle scarpe addosso. Sì, infatti c'era. Arrivano dallo zanzarismo queste zanzare. Infatti, sono più andate via dal 91. Schiva le cose che ti stanno arrivando addosso. Andiamo avanti ad ascoltare un po' di musica. Questo è Big Wild con I Just Wanna. E lui viene da Los Angeles. In realtà non ho praticamente informazioni su di lui, ma mi riprometto a breve di recuperare qualche altra informazione. E incrementiamo un po' i BPM qui a Wolf Trips. Ti piace questo brano molto ritmato? Molto uniti a poco, eh. Sì, sì, sì, te l'ho detto che si parte dal soft si va increscendo. E chiudiamo un po' l'intervista, poi comunque se vorrei rimanere fino alla fine puntata, sei liberissimo, anzi mi farebbe piacere. E, abbiamo parlato un po' degli eventi futuri che ci ha detto che ci saranno, non ci saranno, insomma sono un po' di progetti che sì, diciamo che non sono ancora, definiti, quindi è giusto non parlarne. Però ci hai parlato praticamente di hai tre programmi radiofonici tutto attuali. E quali sono i tuoi prossimi, dove ti potremo ascoltare prossimamente? Beh, ad esempio stasera c'è su Radio Smile alla mezzanotte e mezza, c'è Official Mix Radio Show, che è un mixato di musica da club. Ok. E perché tra l'altro ci tengo a precisare che io faccio un programma anni 90, poi mi sono venuti gli occhiali. Vai tranquillo. Un programma anni 90, però sono molto legato al futuro, cioè io amo sempre nuovo e quindi mi piace sempre proporre musica nuova, e quella è la mia idea, è sempre stata quella, arrivarci prima degli altri, suonare la novità prima degli altri. Caspita, quindi, mi sa che abbiamo delle cose in comune. E quindi mi piace, mi è sempre piaciuto anche sin da prima. E quindi io faccio due programmi con la musica attuale, tra cui questo di stasera su Radio Smile, Official Mix Radio Show, e anche dovrebbe andare in onda il prossimo weekend, che è una cadenza tipo mensile, Mix Master su Radio Pianeta. E invece domani pomeriggio mi potete ascoltare dalle 3 sulla radio anni 90 di cui parlavo prima, Radio Dance Floor, con Novantology, che venono dalle 3 di pomeriggio. Durata del programma è bello lungo, se non sbaglio. No, Novantology un'ora sempre. No, però c'era uno dei programmi che facevi che mi sembrava un po' più, forse ho tutti di un'ora, mi sto sbagliando. No, tutti di un'ora. Tutti di un'ora, sì. Comunque sono vabbè, anche per questioni comunque di location, sono tutti mixati che prepari tu. Sì, certo. In separata sede, poi dopo. Certo. Anche perché non penso che stasera prendi e vai alla radio. No, stasera vado in Sicilia e vado a mixare live. Sì, beh, non sarebbe una brutta idea. Poi dopo devi tornare qua al mattino, perché sennò. Esatto. Va bene. Andiamo ad ascoltare adesso un remix di Seppi del brano Dua Lipa Think About You. Lui è un remixer molto interessante. Sta facendo molte collaborazioni importanti ed è di Chicago. Ho avuto modo anche di scambiarci due chiacchiere su Facebook e mi ha fatto sentire un po' di brani che ha remixato nuovi, che me li tengo lì nel cassetto lì. Li lancerò piano nelle puntate di Wolf Trips. Potrebbe essere un prossimo ospite. Non lo so, perché non è proprio vicinissimo. Magari per una telefonica, però. Devo sciogliere un po' la lingua, perché non è proprio italiano. Ci penso io. Va bene. Andiamo ad ascoltarlo con il remix di Dua Lipa Think About You. My neighbors hate me. Music blasting, shaking these walls. This time Mary Jane won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you. And shaking these walls. This time Mary Jane won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking. Era Seppi con remix di Dua Lipa Think About You. È un remix particolare. Lui fa un genere che in realtà ancora non ho identificato. Comunque, come ti dicevo, non voglio identificare per forza il brano per il genere. Dimmi, dimmi. Ha un po' del. È un po' trap, eh? Sì, sì. Ma molti artisti che sto ascoltando in questo periodo, devo dirti la verità, prendono molta ispirazione dalla trap. Diciamo che Jay Smoker hanno insegnato parecchio questi, sì, questi, sì, mesi. Infatti, se vedi in scaletta, ci sarebbero loro come ultimo brano, non l'originale di quel brano lì. Però secondo me stasera non ce la facciamo. Dai, non Domenico, ce la facciamo. Ma perché l'originale è troppo commerciale per te, dai. Per il tuo programma è troppo commerciale. Sì, sì, sì, sì. No, ma infatti il remix è più misto tra la dubstep. Però dubstep in realtà non troppo esagerata, sì. Cioè non sto parlando di Skrillex, non è una dubstep violenta. No, no, è il filone del dubstep, sì. Cioè il beat del dubstep. E tu comunque mi dicevi comunque che spaziavi praticamente anche tu in vari generi. Però il tuo genere preferito penso rimanga la techno a questo punto, posso dire? Ma o perlomeno al momento, dico. Ma diciamo che al momento mi piace, ma mi reputo abbastanza un DJ commerciale, perché comunque sia nella club e sia nel pop metto comunque delle cose abbastanza orecchiabili. Sì, il primo amore è stato sicuramente la techno. Però mi piace variare, ecco, non mi piace bene bene fermo. bene ci troviamo molto d'accordo, magari su non suonerei mai un Chain Smoker originale, la versione originale, no. Suonerei un remix, però comunque ammetto che i Chain Smoker sono molto bravi, magari giusto, non li giusto. Suono ma sono bravi. Infatti anche proprio l'idea sia del programma che poi sarà anche della parte live che suonerò al Moto Raduno di domenica. Andiamo ad ascoltare gli ultimi brani di questa sera. Ho un paio di novità, non so se riesco a metterle tutte perché vedo che il programma successivo sono già qua dietro alla porta col fiato sul collo, esatto. Quindi andiamo ad ascoltare Naxos con Paper Tiger. Yes. In the wind, I don't wanna know what we could have been. You see the scars on my skin. You told me that you'd die for it. Tell me how strong is our love. Are we made of steel? Tell me how long will we last. Is it even real? In the fire. We'll be right back. Viaggi del lupo. E siamo arrivati alla fine per oggi per Wolf Trips. Abbiamo ascoltato l'ultimo brano, che era di Naxos. Loro sono dell'Austria e si chiamano Chris e Max. Li ascolteremo sicuramente di nuovo. Allora, volevo salutare sicuramente Fabri DJ, che ci è venuto a trovare oggi, che ci ha detto anche che probabilmente ritornerà. Sì, esatto. Ma con questo caldo, no, sei ma sicuro? Io sono rimasto affascinato dal caldo, quindi ok. Puoi venire in canotta la prossima volta se vuoi. Okay. Anche d'inverno in canotta. Inverno fa un po' freddino qua dentro. Io cosa posso dire? Vi posso dire di seguirmi sulla mia pagina Facebook, Fabri DJ, cercando Fabri DJ. DJ. Mixcloud, esatto, tutti questi, diciamo, siti dove potete ascoltare la musica RDS. Ormai sono tantissimi. Sì. O comunque nella mia pagina, dove comunque c'è linkato tutto da Mixcloud e vari portali, insomma. E anche Wolf Trips effettivamente si trova su Mixcloud e abbiamo tutti i podcast, dove metteremo anche il podcast di oggi. Non sono riuscito a mettere tutti i brani che mi ero proposto in scaletta. C'era qualche novità che è molto bella, miseria, mi è sfuggita. Cavolo. Però vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo, sono le ultime puntate, devo dire la verità. E venerdì prossimo avremo come ospiti Murmur Mori, che suoneranno live, ci faranno sentire un po' di musica sicuramente underground ma molto particolare. E ci vediamo domani a Varese per il Lago Divino, dove faremo un po' di trasmissione e ci sarà anche un pezzettino di Wolf Trips. E ci vediamo invece domenica al motoraduno a Cascina Costa, qui vicino, dove ci sarà, farò anche un po' di DJ set. Bello. Sicuramente con la musica che abbiamo ascoltato stasera, magari in versione un po' più da DJ set. Extended, ok, ecco. Sì, possiamo dirlo così. Per oggi è tutto, ci sentiamo settimana prossima. Ciao.